Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana. Il programma sarà in diretta anche domani, in un orario, ve lo anticipo subito, un po' ridotto, però faremo il punto della giornata economico-finanziaria, fermo restando che è festa in mezzo mondo e anche i mercati finanziari saranno chiusi il primo di maggio, come sempre fanno del resto. Oggi tutti aperti e potevano anche chiudere, visto il risultato. -1,5% Parigi, -0,40% Francoforte, -0,75% Londra, -1% Milano, dove i cali più forti si concentrano su ST Microelectronics, -4,20%, Prysmian, -3,70%, Fiat, -2,5%, Enel Green Power, -2,20%, come Fiat Industrial, -2%, Generali, -2%. Ma anche Mediolanum perde, anche Unicredit, scusatemi, perde il 2%. Chi guadagna? Ferragamo sulla scia di Brunello Cucinelli, il botto che ha fatto, +50%, tutto il lusso, continua ad andare benissimo, +6,46%, a €18,47, UbiBanca +2,70%, Monte dei Paschi +2%, Popolare di Milano +2%, Mediobanca +1,5%, Lottomatica +0,80%. Devo dire che, a parte la vicenda Unicredit e Intesa San Paolo che perde l'1,60%, le altre banche sono o con cali poco significativi o, penso al Banco Popolare, -0,27%, oppure sono in rialzo. L'euro a quota 1,3228 sul dollaro. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Ci occuperemo oggi di un fronte europeo. Ci si avvicina alla data per molti cruciale, fatidica, forse eccessivo, del prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Francia, Grecia, ma anche un Land importantissimo in Germania, le elezioni amministrative in Italia. Penso di non aver dimenticato nulla a questo punto, sono i quattro paesi coinvolti. Ancora circola questa ipotesi, oggi trapelata dal, anzi pubblicata ieri sul quotidiano spagnolo El País, di un piano Marshall per salvare l'Europa con fondi anche privati. Nel frattempo si discute molto del possibile asse Roma-Berlino, ma mi sembra ancora una cosa molto molto così aleatoria da quello che vediamo. E poi il Consiglio dei Ministri di oggi, che invece, e qui ci spostiamo sull'Italia, dovrebbe annunciare le misure in termini di spending review, ossia la revisione della spesa pubblica, 790 miliardi l'anno di spesa pubblica, di cui spesso facciamo riferimento, 136 miliardi di acquisto di beni e servizi. Lì si può cercare qualcosa. Ho visto circolare nel fine settimana una cifra di nuovo di 4 miliardi, che sarebbe quello che punta a risparmiare il ministro Giarda. Mi sembra un topolino partorito dalla montagna, perché 4 miliardi su 790 di spesa, ma diciamo pure su 132 di beni e servizi, veramente non sono neanche il 2%. Io penso si possa fare di più. Qualche obiezione, anzi più di un'obiezione, oggi la palesa sul Corriere della Sera l'ex ministro Tremonti, dicendo attenzione, non sarà così semplice, i beni intermedi riguardano la sanità, però dentro c'è di tutto, i tagli lineari sì, ma li avevo già applicati io. Commenteremo anche l'intervista all'ex ministro Tremonti. Alcuni di voi ricorderanno che abbiamo sempre elogiato il suo ruolo di tener botta sulla spesa pubblica italiana, però insomma non può parlare come se fosse un economista di passaggio in Italia. Ha governato il ministero più importante fino a 5 mesi fa e insomma ricordiamo tutti come è andata a finire e quali erano i rapporti tra il ministro Tremonti e il presidente Consiglio Berlusconi nel finale, e anche lo scetticismo e il dualismo, diciamo, che abbatteva ulteriormente la credibilità dell'Italia all'estero, già pesantemente abbattuta. Comunque ne parleremo nella seconda ora del programma, quando ci occuperemo proprio di revisione della spesa pubblica. Dalla Banca Centrale Europea è arrivata l'indicazione riducete, accorpate le province. Devo dire che anche senza Francoforte ci eravamo arrivati da soli, invece le province nell'ultimo governo Berlusconi sono state aumentate con beneplacito della Lega, che ci ha sempre molto tenuto. È inutile raccontare balle, in fase di campagna elettorale tutti le vogliono eliminare, le province, poi quando sono al governo le province fanno comodo. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo modo anche oggi di leggere alcune delle lettere più o meno drammatiche. Ce n'è una di un bancario, di un direttore di una filiale di banca, che è bellissima. E il tema chiaramente è disperati mai. Abbiamo fatto un'intera giornata della radio dedicata venerdì scorso, molti di voi l'avranno sentita. Non molliamo il colpo, certo non possiamo dedicare buona parte del programma a questo, ricorderemo ogni giorno due o tre lettere, quelle più emblematiche e significative che sono arrivate all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Le altre notizie in breve. Avete ragione, l'under è plurale, land tedesco, un land, quello che va al voto. Becco subito la prima correzione, grazie a Enzo da Teramo, grazie veramente, non è una battuta. Invece andiamo avanti con le altre notizie. Oro ancora in aumento a 1664 dollari l'once, petrolio stabile a 104,30. Il dato sul petrolio è che ormai è settimane intere che non si muove da quota 100, che poi sia 103, 104, 102 poco cambia. Lo spread italiano oggi è sotto i 400 punti, sotto anche i 390, 386 punti, che ripeto, lo capisce anche un bambino, sono meglio dei 540 punti in cui eravamo precipitati a novembre, però sono ancora a un livello molto alto, troppo alto. Un livello accettabile è sicuramente dai 300 punti in giù. E tra l'altro oggi, secondo quanto ha riferito la Banca Centrale Europea, si è saputo che le banche italiane a marzo hanno acquistato una marea di titoli di Stato portoghesi. Sono 323 titoli di Stato italiani, 323 miliardi di buoni del tesoro, 22 miliardi in più rispetto ai 300 miliardi di febbraio. Anche le banche spagnole hanno acquistato molti titoli spagnoli, chiaramente titoli di Stato del loro paese, salendo a 263 miliardi, 20 miliardi in più rispetto al mese scorso. Quindi tra febbraio e marzo sono aumentati di 20 miliardi sia in Italia che in Spagna gli acquisti di titoli di Stato dei rispettivi paesi da parte delle banche di quei paesi. E poi l'ILO, sia l'ente che all'ONU si occupa dell'occupazione a livello mondiale, dice che in Italia le misure di austerità rischiano di alimentare ulteriormente la recessione economica e di rinviare la ripresa economica. E, tra l'altro, fornisce anche dei dati sulla disoccupazione che sono un po' diversi rispetto a quelli che fornisce l'Istat. Qui c'è un motivo, l'ILO tiene in conto anche i cassi integrati, cioè considera i cassi integrati come la cassa integrazione come un sussidio di disoccupazione. Su questo c'è molta dibattito in Italia, comunque l'Istat agisce correttamente, cioè lo prevedono le norme. Alcuni dicono attenzione, però quando vivi con 600-700 euro al mese perché hai il 60-70 80% dello stipendio, sei di fatto un disoccupato con un sussidio. Fatto sta che se si prende in evidenza anche la cassa integrazione, la disoccupazione italiana è al 9,7% complessivamente, a cui si aggiungerebbero altri 250.000 lavoratori in cassa integrazione, quindi andrebbe oltre il 9,7% stimato dall'ILO, andremo oltre il 10% se vogliamo considerare i 250.000 lavoratori in cassa integrazione come non occupati e quindi di fatto con un sussidio. Sulla spending review volete avere notizie? Non ce ne sono per ora, però attenzione, il ministro Giarda ha detto che entro l'estate arriveranno tagli di 4 miliardi di euro che dovrebbero permettere di non aumentare l'IVA dal 21% al 23% ad ottobre. I cinque ministeri su cui si è concentrata l'attenzione di Giarda sono giustizia, difesa, interni, istruzione ed esteri, salvi al momento sanità e pubblico impiego. Io, sulla sanità, mi permetto di dire che attenzione, la sanità è vero che è fondamentale, ci mancherebbe, però gli sprechi maggiori, o meglio i deficit delle regioni maggiori, si realizzano proprio nelle spese sanitarie. Il 70% del buco delle regioni è spesa sanitaria, e questo è il 70% del buco di spesa sanitaria è attribuibile sostanzialmente a tre regioni, 3/4, ogni tanto entra anche la Liguria, che sono Sicilia, Campania e Lazio. Nel frattempo, in termini di stanziamenti, il CIPE oggi, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha dato il via libera a 2 miliardi di euro, 2 miliardi e 100 di interventi per la edilizia scolastica, un valore sostanzialmente, sono 5.000 interventi programmati per un importo di 105 milioni di euro. Ne sono arrivati complessivamente di euro 500.000 per un totale di 2.100 interventi programmati. La notizia l'ha scritta in maniera un po' contorta e involuta, ma insomma tant'è, per cui su 5.000 interventi programmati siamo arrivati a meno della metà, e anche l'importo appunto rispetto al miliardo è meno della metà. Parleremo anche dell'inflazione, che oggi risulta stabile. Il dato di aprile è al 3,3%, la crescita dei prezzi al consumo, tra l'altro è il dato identico a marzo. Però se si va a guardare la spesa più frequente, il cosiddetto carrello della spesa, cioè i prodotti acquistati con maggiore frequenza, dopo anni che lo chiedevamo all'Istat, finalmente l'Istat ha sviluppato un sottoindice, perché è inutile sapere che il televisore è fermo se tu il televisore lo compri una volta ogni 4 anni o 5 anni, ti interessa di più sapere come va il prezzo dell'alimentare piuttosto che della benzina, piuttosto che delle altre spese di maggior utilizzo. Ebbene, se si guardano le spese più frequenti, il carrello della spesa sarà del 4,7% ad aprile rispetto ad aprile dell'anno prima. È il dato più alto di inflazione dal settembre 2008. Ora, siccome sappiamo tutti che qui i prezzi dei generi più frequenti salgono non perché la gente abbia portafogli gonfi e pieni da spendere in consumi, ma perché la benzina e il gasolio sono ai massimi e conseguentemente tutto quello che viene trasportato aumenta di prezzo, si chiama inflazione importata. Andiamo a vedere cosa ha fatto la benzina: più 20% ad aprile rispetto ad aprile del 2011, è il livello, l'aumento più forte del prezzo della benzina dal 1996. Tra l'altro, questo dovrebbe portare maggiori gettiti, avevo visto una stima sui 4 miliardi di euro allo Stato, ma non se ne sa niente, perché quando aumenta il prezzo del petrolio e aumenta il prezzo della benzina, aumenta conseguentemente, essendo l'IVA proporzionale, aumenta il gettito per lo Stato. E addirittura mese su mese, cioè aprile su marzo, ha fatto più 3% la benzina. Certo, l'Eni ha tagliato i listini di un centesimo per la verde e di 0,5 centesimi per il diesel, però il prezzo resta 1,981 euro per la benzina verde e 1,812 euro per il diesel. Un paio di notizie sulla crisi degli altri, poi passiamo al primo tema, il piano Marshall, la Spagna che rientra ufficialmente in recessione, tutto in attesa di capire se cambierà il vento in Europa, se un'Europa troppo governata da tecnici e da regole fiscali, che voglio dire in questo caso omogeneizzazione sui conti pubblici, riduzione della spesa, tasse, cederà il posto, dicevo, e il passo a un'Europa più politica, che si occupi più dei popoli che dei conti. Intanto qualche notizia dalla crisi degli altri. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, la Coldiretti segnala un allarme soia. Il prezzo della soia è cresciuto più di quello dell'oro, con un aumento record di quasi il 25% dall'inizio dell'anno. e ha raggiunto la quotazione praticamente di 15 dollari al bushel. Il bushel è il sacco con cui si misurano le materie prime di carattere agricolo, vuol dire sostanzialmente 42 centesimi al chilo. Per le consegne a luglio siamo i massimi dall'estate del 2008 al Chicago Board of Trade, che è la borsa mondiale per le commodities. La Coldiretti ha fatto notare che l'oro ha fatto un più 6% da inizio anno e invece la soia il 25% in più. Chissà chi è investito sui futures della soia com'è contento. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. 75 pence all'ora, ossia 92 centesimi di euro, è la paga oraria minima e senza bonus che ricevono alcuni lavoratori imbarcati sulle navi da crociera della compagnia britannica P&O parte del gruppo Carnival, quello anche della costa crociere. Lo ha riportato il giornale inglese Il Guardian. Lo staff praticamente ora rischia di perdere anche le mance in virtù del nuovo contratto. Secondo i manager di P&O, il pacchetto in arrivo rappresenta un aumento significativo del salario minimo, e te credo, 92 centesimi di euro all'ora, ed è disegnato per rendere l'equipaggio più reattivo da un lato e per proteggere i lavoratori dalla diminuzione delle mance dovute alla crisi. Infatti i passeggeri anche delle navi da crociera sono molto più restii ad aprire il portafoglio per le mance. Un giovane cameriere ha diritto quindi a uno stipendio base da 250 sterline, circa 306 euro al mese, 306 euro al mese per i turni da 11 ore, 7 giorni su 7. Se tutto va bene, il salario verrà integrato da una gratifica di 150 sterline, circa 180 euro. Mi sembrano salari da fame, ma non è che mi sembrano, sono salari da fame. Vabbè, ne prendiamo atto. Adesso vediamo anche in tema di salari da fame, e cioè questo grande risultato che ha ottenuto la Germania chiedendo giustamente a tutti i paesi di mettere in ordine i conti. E questo è giusto, però non mettendo niente sull'altro piatto della bilancia, sul fronte della crescita, quello che sta portando l'aumento delle tasse e le manovre, diciamo, di taglio della finanza pubblica stanno portando di fatto a un abbassamento di quello che è il reddito pro capite disponibile, cioè il salario disponibile. In Italia siamo scesi in fondo alla classifica OCSE, ma vedi il caso britannico e soprattutto vedi il caso greco, spagnolo e portoghese. È chiaro a questo punto che morire, passatemi in termine, per la Germania, per le sue regole draconiane, giuste in una parte ma completamente assenti nella parte della crescita, diventa un problema politico, e la risposta l'avremo, immagino, il prossimo 6-7 maggio. Sì, tutto questo nel giorno in cui la Spagna ufficialmente torna in recessione, meno 0,3% nei primi tre mesi del 2012, e appunto con due trimestri consecutivi in contrazione si conferma ufficialmente il ritorno della Spagna in recessione. Era dal 2009 che la Spagna non aveva un segno meno nella sua crescita, nel suo dato economico. Poi c'è questa ipotesi assurda del mondo in cui la Spagna si starebbe preparando a creare una bad bank, una banca piena di asset, di partecipazioni di altre banche che sostanzialmente vanno male. Ricorderete la bad company nel caso di Alitalia, una società che prendeva la parte negativa e un'altra che era la good company che prendeva quella positiva. Qui ci sarebbe solo la bad bank, e secondo fonti della Banca di Spagna, la società di consulenza BlackRock sarebbe stata incaricata di individuare tutte le parti tossiche in mano alle banche, gli asset tossici in mano alle banche, per separarli da altre attività, ripulire così i bilanci e farli confluire in questa banca tossica, chiamiamola così. Nel frattempo è fuga di capitali spagnoli dalle banche, fuga di capitali dalle banche iberiche, soprattutto 65 miliardi di euro sarebbero usciti dalla Spagna negli ultimi mesi, riducendo del 5% il valore dei depositi bancari. Intanto l'Europa discute di piano Marshall, l'ipotesi del paese, cioè 200 miliardi di investimenti pubblici e privati per riattivare la crescita in Europa, lanciando investimenti in infrastrutture, energie rinnovabili, tecnologie, e dell'altro piano l'asse, a me l'asse Roma-Berlino ricorda tempi infausti, comunque l'asse tra l'Italia e la Germania. Mario Monti vorrebbe spingere i tedeschi verso il varo di Eurobond, o meglio di obbligazioni legate ai finanziamenti di progetti infrastrutturali, e quindi levare gli investimenti, le spese per investimenti dal calcolo del deficit. E vi sarebbero già stati scambi di delegazioni, audizioni dei ministri, e insomma molto attivo il nostro ministro degli affari europei Enzo Moavero e il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli. Sostanzialmente la Germania cercherebbe nell'Italia quello che era stato il rapporto privilegiato con la Francia. Adriana Ceretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Tu hai scritto un pezzo, un commento molto bello, a mio avviso, sul tema dell'Eliseo con le mani legate, 5 giorni fa, il 25 aprile. Iniziamo con oggi la settimana cruciale, secondo alcuni, per il destino dell'Europa. Intanto vorrei capire se tu credi all'ipotesi di piano Marshall e all'ipotesi di un asse privilegiato Roma-Berlino. Poi andiamo anche sul resto. Ma l'ipotesi di un piano Marshall è stata smentita dalla stessa Commissione europea non più tardi di qualche ora fa. Cioè, loro dicono non c'è nessun piano Marshall da 200 miliardi di euro, semplicemente stiamo lavorando alla famosa strategia Europa 2020, quella lanciata nel 2010, che è quella che appunto ruota intorno a una serie di riforme strutturali che in parte sono quelle che si stanno un po' facendo in tutti gli altri paesi. Questo però non c'è dubbio che a parte l'Europa 2020 ci sono varie idee sul tavolo e da tempo, che sono da una parte quella dei project bond lanciati dalla Commissione nel settembre scorso, e questi prevedono l'aumento del capitale della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, di 10 miliardi. Con questi 10 miliardi in più di capitali si potrebbero raccogliere circa 180 miliardi, e in questo ci si avvicinerebbe a questa famosa cifra di 200 miliardi di cui si parlava. Questo con l'apporto appunto di capitali pubblici e privati. Poi c'è l'altra idea, che è quella di lavorare sui fondi strutturali, quelli non ancora spesi, per cercare di rientrarli verso progetti di crescita e soprattutto per il rilancio della occupazione giovanile. Poi naturalmente c'è il bilancio europeo, soprattutto quello pluriennale 2014-2020, che dovrebbe appunto essere a sua volta riorientato nelle priorità politiche e al tempo stesso potenziato, diciamo, nelle risorse. Però tutti questi sono progetti ai quali si sta lavorando, ma sui quali non c'è accordo, perché naturalmente quando si tratta di aumentare per esempio le risorse del bilancio, nella migliore delle ipotesi la Germania per ora è per il congelamento delle risorse, e c'è chi dice che si dovrebbero addirittura diminuire, visto che in tutti i paesi si fa una grande austerità, dunque anche nel bilancio europeo si deve fare lo stesso, non capendo che invece il bilancio europeo dovrebbe essere guardato con altri occhi, cioè con gli occhi di uno strumento per incentivare, stimolare la crescita europea a beneficio di tutti, ma qui non ci stiamo ancora. Quanto all'asse Roma-Berlino... stando a quello che tu dici, però a questo punto l'asse Roma-Berlino, sì, su che lo facciamo? No, aspetta, no, l'asse, nel senso, Roma-Berlino... Che, voglio dire, se la Germania, come tu hai ribadito, è contraria a un innalzamento dei fondi, non ha tutte queste intenzioni di aumentare quello che è il bilancio della Commissione europea, cosa restano? I bond, le obbligazioni per finanze di progetto, per le opere infrastrutturali? Quelle sarebbero comunque fatte attraverso la BEI, allora... la Banca Europea degli Investimenti. No, però, dunque, ti vado a spiegare. Con la prospettiva della vittoria di Hollande in Francia, prospettiva che sembra abbastanza concreta, la Germania comincia a muoversi, perché finché erano tutti gli altri, diciamo, a brontolare e a fare recriminazioni, la Germania era abbastanza indifferente. Però da una parte le recriminazioni, dall'altra lo stesso declassamento della Spagna, con una ragione ben precisa, cioè si ritiene che la Francia non possa crescere abbastanza per mantenere i propri impegni. Quindi la Spagna, è ovvio che la Germania stessa, nonostante, diciamo, le sue reticenze e riluttanze, a un certo punto sia portata dai fatti a ricredersi e quindi ad ammorbidire un po' le proprie posizioni. E qui entra in gioco Monti, che indubbiamente ha fatto un'operazione per tentare di convincere la Merkel fin dalla sua prima famosa visita a Berlino, con l'idea di bilanciare rigore e crescita. Oggi la situazione con la Francia, che probabilmente diventerà socialista, con un Hollande che ha nella crescita economica la priorità assoluta, altrimenti dice: io non ratificherò il fiscal compact, cioè il patto per stringere ulteriormente la disciplina sul bilancio, dicevo, con l'idea che arrivi Hollande e che la Francia cambi campo, a questo punto la Germania da una parte si ammorbidisce e dall'altra cerca una sponda ovvia nell'Italia, che è il terzo grande paese dell'euro. E non c'è dubbio che tra Monti e la Merkel ci sia una certa sintonia, se mi consenti, ideologica, nel senso che entrambi vedono le cose un po' allo stesso modo, no? Quindi, insomma, speriamo che da qui a dire che ci sarà l'asse e che non ci sarà, diciamo, piuttosto un triumvirato nel caso. Questo è tutto da vedere. E non dimentichiamoci un'altra cosa: che la Germania, anche quando in qualche modo andava d'accordo con Sarkozy, perché non si sono mai amati Merkel e Sarkozy, in ogni caso la Germania ha sempre sostenuto che non andavano trascurati i paesi medio-piccoli, anche se poi nella realtà non gliene mai fregato niente. Come un elefante, no, io penso che in questo momento la Germania abbia, lo abbiamo già detto, ricevuto la botta più forte dal suo alleato storico Olanda, quella che era più rigorosa anche degli stessi tedeschi, dove il governo è crollato per via proprio del fiscal compact, cioè dei prossimi giri di vite che anche l'Olanda dovrà fare per rispettare le regole sul deficit e sulla riduzione del debito. Dopo il metodo e la pubblicità, resta con noi però Adriana, perché vorrei capire in realtà anche il rapporto franco-tedesco. Cioè, a me quando tu dici che c'è un'affinità ideologica, un'affinità elettiva tra Monti e Angela Merkel, non è che mi senta molto bene oggi, perché io vorrei vedere un'affinità elettiva tra l'Italia e altri paesi dell'area, per esempio la Francia, la Spagna. A mio avviso è molto diversa la situazione tedesca da quella italiana, e non solo a mio avviso, e mi preoccupa un po' che l'affinità di Monti sia simile a quella della Merkel e non viceversa. Sentiamo intanto il portavoce dell'Unione Europea, Pia Ahrenkilde, smentire, come già ricordava la nostra Adriana Ceretelli, l'ipotesi di un piano Marshall circolato sulla stampa. Era il Paese, se non ricordo male, averlo anticipato. Dice: sono solo speculazioni della stampa. We have seen some highly speculative figures out there, speculation which have no reality as far as we are concerned. Abbiamo visto sulla stampa alcune cifre molto speculative e molte speculazioni che riteniamo non abbiano niente a che fare con la realtà. Come ha già detto e ricordato il presidente Barroso venerdì, dopo l'incontro con Mario Monti, abbiamo già un piano per la crescita sostenibile e si chiama Europa 2020. Questa strategia, proposta anni fa nel 2010, è stata approvata da tutti gli Stati membri e appoggiata dal Parlamento europeo. Non stiamo parlando di un'alternativa al consolidamento di bilancio. La strategia per la crescita Europa 2020 fa da completamento indispensabile al consolidamento di bilancio. Non si tratta di scegliere tra il consolidamento di bilancio o la crescita. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. Come ha già detto il presidente Barroso venerdì, questo è possibile per fronteggiare le grandi sfide e aiutare l'Europa a tornare a crescere e a creare posti di lavoro. Quindi non stiamo scoprendo oggi l'agenda europea per la crescita. Sto pensando, per esempio, esempio, al fatto che stiamo lavorando sulla crescita a tutta velocità come completamento al consolidamento di bilancio, questioni che abbiamo affrontato lo scorso ottobre. We're not discovering Europe's growth agenda today. I'm also thinking about the comprehensive roadmap for stability and growth that we put forward in October. Dunque, Adriana Cerretelli, per concludere, abbiamo capito tutti che forse la Germania qualcosa concederà. Tu però hai messo in evidenza che se anche dovesse vincere Hollande, ci sarà un nuovo Eliseo a matrice socialista, però con le mani legate. Perché legate? Perché io credo molto di più, permettetemi, alla forza della Francia di imporre qualcosa all'Europa, non alla Germania, che alle rivoluzioni che arriveranno dall'asse Angela Merkel, Mario Monti, anche perché Mario Monti vuole mantenere la sua reputazione a livello europeo, anche lui vorrà fare qualcosa dopo marzo 2013, c'è chi lo vuole candidare alla presidenza dell'Unione Europea, quindi ha bisogno che il suo status sia quello di Grand Commis dell'Unione Europea e non di politico nazionale. Prego, Adriana. Beh, innanzitutto sul futuro di Monti, io credo che forse lo saprà solo lui quello che vuole fare. No, lo dico, però per formazione... lo dico in questo senso. No, lo dico in questo senso, che non dico niente di nuovo se dico che molti pensano che andrà piuttosto al Quirinale e che potrebbe preferire il Quirinale all'Europa. Ma detto questo, certo, lui ha tutto l'intenzione e mi sembra che anche tanti passi che ha fatto dicano che vuole un po' fare il pontiere, no? Cioè, quindi va... Diciamo che ci tiene molto ed è legittimo, eccetera, a quello che pensano di lui i grandi tecnici dell'Europa. Certo. No? Certo, non è un politico, non ha bisogno di essere rieletto nel collegio elettorale, non gli interessa di meno quello che penso io, perché non lo voto Monti, gli interessa di più quello che è la sua allure, lo standing a livello europeo. Certo. No? Certo, lui ha indubbiamente una forte credibilità, ha sicuramente una fortissima sensibilità culturale verso il modello tedesco, al quale insomma è molto affezionato e ce ne siamo accorti. Lì sui suoi fondi sul Corriere ne abbiamo letti tantissimi. Appunto in cui si indicava il modello tedesco come la miglior via, diciamo, anche per l'Italia per crescere meglio, competere meglio, eccetera eccetera. Allora, perché io penso che Hollande sarà, quando sarà eletto, non sarà una presidenza forte? Beh, perché a meno che i numeri non smentiscano diciamo il primo turno, noi abbiamo visto che non ha raggiunto al primo turno con l'alleato Mélenchon, cioè non ha raggiunto la soglia minima per avere la sicurezza dell'elezione, cioè il 46%, è arrivato al 39% dei consensi ottenuti. Questa non è una soglia di sicurezza, però sembra che Sarkozy sia ancora più debole e che dunque alla fine ce la farà lui. Ma questo lo dico per dire che probabilmente la sua non sarà un'elezione con una, come dire, non dico plebiscitaria perché la sinistra in Francia non può essere plebiscitaria, ma comunque una forte affermazione. Detto questo, poi si ritrova alla guida di un paese che dovrà intraprendere un forte programma di austerità, perché finora non se ne è parlato perché ci sono le presidenziali, ma comunque anche la Francia non ha i parametri a posto, anzi, e quindi dovrà far fronte a impopolarità, eccetera eccetera. Questo naturalmente da una parte lo spingerà a chiedere con forza programmi di crescita, ma al tempo stesso non sarà un leader forte che si presenterà al tavolo negoziale, anche se è un francese. In più dobbiamo pensare alla sua compagine, lui all'interno, a prescindere, diciamo, da queste forze più estreme, tipo Mélenchon alla sua sinistra, dentro al partito stesso ci sono dei fermenti anti-europei noti da sempre, parlo di Laurent Fabius, l'ex primo ministro, che è notoriamente qualcuno che non ama particolarmente il modello europeo e invece predica l'Europa delle nazioni. Quindi tutto questo farà sì che tra Merkel e Hollande già diciamo l'intesa non è mai partita finora. Certo, una volta eletto presidente un dialogo ci dovrà essere, ma potrà essere più faticoso. E in questo caso naturalmente Monti potrà fare da pontiere tra la Merkel e Hollande, o perlomeno potrà provarci. Però io credo che alla fine, da una parte, qualcosa per la crescita si dovrà fare, perché la Germania non può isolarsi e dire no, io non faccio nulla, quando tutta l'Europa gli crolla intorno. Anche perché sennò rischierei di uscire dall'euro. Ma tu hai chiarito molto bene come da Mario Monti potrebbe diventare Mario Ponti. Terribile questa, però perché svolgere un ruolo di pontiere tra Angela Merkel, che comunque vedremo come andrà anche l'elezione nel Land a domenica, perché secondo me prenderà un'altra batosta e non si capisce nemmeno cosa stia ottenendo la CDU da tutto questo rigore, però quelli sono fatti tedeschi, fare un ruolo di mediatore tra l'esigenza di mantenere il rigore in Germania e l'esigenza di non far trasformare questo rigore in un rigor mortis nel resto d'Europa. Esatto. Settimana cruciale questa, grazie Adriana Cerretelli. Adesso la borsa, però devo leggere una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda il prezzo della benzina. Per chi si fosse perso la prima parte del programma, oggi l'inflazione è cresciuta poco rispetto al dato di aprile, rispetto a marzo, cioè è rimasta ferma, ma moltissima è cresciuta l'inflazione che si chiama benzina e gasolio, più 20,8% la benzina aprile 2012 su aprile 2011, addirittura più 3% aprile di quest'anno su marzo di quest'anno, il congiunturale cosiddetto. È un record nell'aumento, un 20% in più anno su anno, non si vedeva almeno dal 1996, cioè da quando esistono le serie storiche. A mio avviso bisogna andare indietro fino allo shock degli anni 70. È arrivato puntuale il comunicato dell'Unione Petrolifera Italiana, ossia il mitico presidente De Vita, con cui abbiamo avuto qualche scambio dialettico in questi 10 anni, che dice: sui rincari registrati dall'Istat pesano le accise. Ecco che calcolano i petrolieri con un confronto aprile su aprile, la sola componente accise senza IVA nel frattempo passata al 21%, e che si scarica anche sul prezzo industriale, la benzina è aumentata del 23% e il gasolio del 37%. Le accise sulla benzina sono aumentate del 23% e quelle del gasolio del 37%. Insomma, non c'è stato l'aumento del petrolio. Grazie, Presidente De Vita, per averci ricordato che sempre allegri dobbiamo stare. E sempre allegri bisogna stare. Il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Meno 1,26% Milano, borse chiuse domani, meno 1,60 Parigi, meno 0,60 Francoforte, meno 0,70 Londra. Devo dire che l'effetto Kashmir, effetto Brunello Cucinelli. Quello continua. Sì. Quello continua, Salvatore Fragamo più 6,46%. Ma Cucinelli che ha fatto oggi? Più 3,45. Cavolo. E anche Piquadro più 5%, tutti il titolo del lusso, Sì, oggi è proprio continuato il boom del lusso che aveva già partito appunto venerdì sulla scia della quotazione di Brunello Cucinelli. Oggi in particolare, come dicevi tu, Ferragamo è stata la migliore del FTSE MIB, più 6,46, il titolo è oltre i 18 euro, quindi se ricordiamo che è stata quotata nel giugno dell'anno scorso a 9 euro, ha raddoppiato il suo valore in meno di un anno. Quindi diciamo che è ovviamente una performance molto significativa, segno che, come diciamo spesso, insomma, anche in tempi di crisi il lusso si vede che da qualche parte i soldi ci sono ancora. Il lusso va benissimo in tutti i paesi che crescono e che formano nuovi miliardari, lo ripetiamo allo sfinimento. E quindi Cina, India, ma anche molto Brasile e anche altri paesi asiatici. Oh, lì c'è ciccia, qua ci sono ossa. Andiamo avanti, dai, più quadro più 5%, invece tra chi perde, oggi le banche sono molto miste, nel senso che UbiBanca guadagna il 3%, Monte dei Paschi più 1,60%, Mediobanca più 1,5%, Popolare di Milano più 1,40%, andamento diametralmente opposto per Unicredit meno 2,30% e anche Intesa San Paolo meno 2%. Esattamente, mentre le big risentono soprattutto del taglio della rating delle banche spagnole da parte di Standard & Poor's, che ha pesato oggi su gran parte del comparto, così come in generale la Spagna con l'ufficializzazione della ritorno in recessione ha pesato oggi su tutti i listini. Invece, come dicevamo, alcune banche di media dimensione hanno guadagnato terreno, soprattutto quelle che tra venerdì e il weekend hanno riunito i soci per l'assemblea annuale, quindi assemblea da cui sono giunte alcune indicazioni sull'andamento della società. In particolare BPM appunto ha guadagnato l'1,4%, i vertici hanno annunciato un piano industriale che sarà un po' lacrime e sangue, hanno parlato di una terapia Duarte, quindi il mercato si aspetta soprattutto interventi sul fronte dei costi, mentre UbiBanca ha annunciato che prevede già un primo trimestre con dei miglioramenti rispetto all'anno scorso e quindi oggi è stato il miglior titolo bancario con un guadagno di oltre il 3%. Per quanto riguarda infine il Monte dei Paschi più 1,6%, ricordiamo che venerdì è stato nominato al vertice il nuovo presidente Alessandro Profumo, quindi comunque anche qui banca sotto i riflettori per un nuovo piano, per un aggiornamento del piano vecchio, per capire appunto quali saranno le direttrici di sviluppo per la società. I due titoli peggiori però tra quelli a maggiore capitalizzazione si chiamano Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi meno 3,70% ed ST Microelectronics meno 4,20%. Allora, Prismian veniva da un periodo di rialzi, per cui ci può stare, ma correggimi se invece c'è qualche notizia specifica. No, non c'è nulla di particolare. ST Microelectronics invece, insomma, non viene da un periodo brillante, è complice anche Nokia, No, infatti RST, su RST oggi pesa il giudizio di Moody's che ha confermato il rating sulla società ma ha tagliato l'outlook che adesso è negativo mentre prima era stabile, e continua a pesare su RST l'andamento della joint venture con Ericsson, ST Ericsson, che non riesce a voltare l'angolo e quindi a diventare un punto di forza, continua a pesare sull'andamento della società. In particolare Moody's sottolinea che non c'è molta fiducia che possa registrare presto un cash flow positivo e che quindi il turnaround possa essere dietro all'anno, ed è uno sempre dei punti più critici insieme all'andamento del mercato globale che pesa quindi ovviamente sulla domanda e come ricordavi tu anche l'andamento di alcuni concorrenti come Nokia che hanno registrato performance non brillanti di recente e quindi si teme che possa esserci un calo da parte di loro di domanda su S&P. Prema fin oggi la finanziaria della famiglia Ligresti che controlla appunto il gruppo guadagna l'8,40%, ha guadagnato l'8,40%. Sì, diciamo che oggi tutti i titoli erano sotto i riflettori, da una parte per l'assemblea Unipol, dall'altra per questo vertice che si è tenuto a Roma nella sede dell'antitrust, proprio tra i vertici del gruppo Ligresti, l'autorità che ricordiamo ha bloccato al momento la fusione tra Unipol e Fondi Aviasai. Diciamo che sono partiti appunto i contatti per capire quale sarà l'esito di questa procedura e se nel frattempo, come ha detto l'amministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri, c'è la possibilità di procedere comunque almeno per quelle attività propedeutiche alla fusione che non comportano mutamenti irreversibili, che è quello che teme l'antitrust ed è per questo che ha bloccato l'operazione. Nel frattempo appunto i titoli sono rimasti sotto i riflettori e sono stati tutti chi più chi meno premiati dagli acquisti, come ricordavi tu prima, a fine estate la migliore ha guadagnato oltre l'8%, ma i guadagni sono stati più o meno generalizzati su tutti i gruppi della galassia. Per fare un esempio, Fondi Aviasai è salita del 2,77%. Migliori e peggiori in assoluto: antiche pellettieri meno 9,21, Fintel Energia Group meno 9,95, migliore in assoluto Edes più 14,6, RDB più 13%, risanamento più 12,3% e poi Premafin finanziaria appunto più 8,40%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso ci avviciniamo, anzi entriamo nella pagina tutta italiana in cui purtroppo, lo dico, dovrò leggere le lettere che avete scritto, alcune delle lettere che abbiamo selezionate, arrivate anche all'indirizzo Disperati Mai. Prima però vorrei citare due o tre passaggi di un'intervista importantissima oggi sul Corriere della Sera all'ex ministro Giulio Tremonti. Intervista da leggere con attenzione, perché dice: attenzione, il rigore nella manovra tecnica del governo Monti non c'è un buco da 20 miliardi, si è scelto solamente di aumentare le tasse e le tariffe, la manovra è squilibrata, dai tecnici sono arrivate idee erronee sull'IMU per la seconda casa, perché spiega Tremonti che spesso la seconda casa non è la casa di villeggiatura, ma quella di dove è vissuta la famiglia per via delle enormi migrazioni da sud a nord, dall'Appennino alla pianura. E poi c'è un passaggio che mi lascia perplesso, dice: bisogna passare dalle tasse verso le persone alle tasse verso le cose, riducendo un welfare generoso anche con i ricchi. Si poteva fare una manovra fortemente equilibrata e portare a casa da novembre dei risultati molto consistenti. Si potevano ottenere 10-15 miliardi. A parte il fatto, ma mi sbaglierò, che dire che bisogna passare dalle tasse alle persone, alle tasse alle cose, a casa mia si chiama patrimoniale. E voglio dire, l'IMU è una forma di patrimoniale, però Tremonti la critica sulla seconda casa. Tremonti è convinto che la soluzione sia la patrimoniale, e soprattutto che il partito a cui ancora appartiene, il PDL, sia favorevole alla patrimoniale? Ma c'è un discorso di fondo, in un'analisi anche corretta da parte di Tremonti, che dice critica la Germania, la questione dell'IVA, identifica appunto in 20 miliardi una manovra aggiuntiva che servirà. Io immagino che sia lo stesso Giulio Tremonti che fino a novembre faceva il ministro dell'economia, lo stesso Giulio Tremonti il cui governo non è riuscito a fare la riforma delle pensioni per l'opposizione della Lega, lo stesso Giulio Tremonti che manifestava in più di un'occasione la sua distanza anche dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di allora, e con cui le frizioni erano continue tra appunto Berlusconi e Tremonti, indebolendo ulteriormente l'immagine dell'Italia all'estero, già indebolita da altri scandali. Immagino sia lo stesso Tremonti che queste cose non le ha fatte in quei 3 anni. Dice Tremonti: ma nessun ministro può fare da solo queste cose, quando sei al G20 ti ritrovi 1 contro 19, e allora non si capisce perché debba farle Monti. Non so, c'è qualcosa che non mi torna, ma penso che sia lo stesso Giulio Tremonti che, oltre che aver fatto lo scudo fiscale al 5%, dichiarasse non 20 anni fa, ma nel 2009, a metà del 2009, che sì, si era ancora in terra incognita, quindi in una fase ancora non del tutto conosciuta, ma che il peggio ormai era alle spalle. Abbiamo dato atto di alcuni segni fisici e di soft, di indicatori positivi, però non possiamo ancora dire di essere in una terra che ci dà certezza, stabilità assoluta, siamo ancora in terra incognita. Tuttavia ci sono delle parole, delle formule che dicono che è finita la velocità di caduta, che ci sono segni di stabilizzazione, che ci sono anche segni di ripresa. Insomma, c'è uno scenario che è fatto da tante cose, non tutte negative. Vabbè, così a metà del 2009, ma io ricordo anche che lo stesso Giulio Tremonti, che oggi è intervistato su Corriere della Sera, se non c'è un problema di omonimia, era la persona, il ministro dell'economia italiano, che sempre nel 2009 all'ipotesi di un calo del PIL del 2% diceva: vabbè, ma insomma si torna indietro di qualche anno, mica si torna al Medioevo. Vuol dire che noi torniamo come eravamo nel 2005. Era così grave, così drammatico, 2006. Se fosse solo un dato di crescita, meno 2 vuol dire che torniamo con il 2006, che non mi sembra fosse Medioevo. E quindi a questo punto dovremmo anche dire che l'aumento del prezzo della benzina, che non si aveva così forte anno su anno dal 96, tutto sommato neanche nel 96 si stava così male. Io non lo so, ma io non penso che una persona intelligente come Giulio Tremonti immagini che noi non ci ricordiamo, che non ricordiamo tutte le dichiarazioni che abbiamo mandato in onda in questi anni di senso contrario e opposto. Vorrei fare sentire invece che cosa ha detto la nostra Maria Luisa Pezzali, visto che oggi l'inflazione, anche qui, si torna si torna indietro, record dal 96 la crescita della benzina, il calo della spesa, quindi l'inflazione di beni e maggior consumo è salito del 4,7%, anche qui si torna al 2008, uno potrebbe dire con Tremonti mica si stava male nel 2008, anzi si stava meglio adesso. Ma non è così che funziona la statistica. Allora la nostra Maria Luisa Pezzali ha chiesto al responsabile dell'Istat, del servizio prezzi dell'Istat, Mauro Politi, se veramente anche l'aumento dei prezzi dei beni a maggior consumo sia da attribuirsi sostanzialmente al record nell'aumento del prezzo della benzina e del gasolio. A aprile l'inflazione mostra un tasso tendenziale del 3,3% e praticamente è lo stesso degli ultimi tre mesi, anzi addirittura a partire da novembre, tranne un calo dal 3,2% per gennaio, quindi diciamo l'aumento si mantiene in linea e non mostra accelerazioni particolari. Quello che fa più notizia è il rincaro del cosiddetto carrello della spesa. Il dato dei beni ad alta frequenza d'acquisto mostra degli aumenti molto forti, infatti abbiamo un 4,7% che si confronta con un 5,4% del settembre del 2008. Su questo chiaramente hanno pesato molto i beni energetici, sia quelli regolamentati, l'energia elettrica che è aumentata del 3,6% sul mese precedente, qui l'aumento sull'anno è del 10,9%, anche il gas, quindi tra i beni regolamentati, ha un aumento annuo del 15,1%. I beni ad alta frequenza di acquisto sono influenzati anche dagli aumenti dei carburanti. Qui abbiamo la benzina che è aumentato del 3,1% su marzo, il tasso tendenziale in questo caso è del 20,8%. Si va quasi a porre uguale a quello del gasolio, che generalmente aveva avuto nell'ultimo periodo delle dinamiche tendenziali più forti, mentre adesso diciamo il gasolio è aumentato solo tra virgolette dello 0,9% sul mese precedente e invece su base annua del 20,5%. E restiamo in tema d'Italia, perché nel leggere alcune delle lettere arrivate a Disperati Mai vorrei anche capire che cosa sta uscendo dal Consiglio dei Ministri sulla cosiddetta spending review, cioè sulla revisione della spesa pubblica. Ed ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Luca Ricolfi, che insegna analisi dei dati all'Università di Torino e oggi ha scritto un pezzo su questo, devo dire un po' disarmante. Buonasera professore. Buonasera. Che il suo commento è l'utopia della lotta agli sprechi. Io spero che lei si sbagli. Intanto però allora siamo in due. Chi dice lei con la Germania è un disco rotto, lei deve finirla di avercela con la Germania. Attenzione, abbiamo sempre detto che i compiti prima si fanno a casa e noi dobbiamo fare i compiti nostri, quindi riduzione della spesa pubblica, riduzione dell'evasione fiscale, aumento dell'età pensionabile l'abbiamo fatto, riduzione del deficit e del debito pubblico. Detto ciò, non lo dice il sottoscritto, non lo dicono neanche gli italiani, lo dicono tutti gli economisti e anche la Casa Bianca e anche la Bank of England, cioè tutti gli osservatori anglosassoni, che non mi sembrano dei pericolosi comunisti, dicono che con la ricetta tedesca metterai a posto i conti ma non riesci a crescere, e cioè prendi l'antibiotico senza le vitamine, se vogliamo dirla così. Servono anche, non solo, anche le vitamine, servono anche gli antibiotici. Buonasera, sono un direttore di una piccola filiale di una banca di credito cooperativo. Ho pianto più volte nell'ascoltare le testimonianze degli imprenditori disperati, perché io mi sento dalla loro parte. Non di quelli però che con troppa facilità hanno cancellato i loro debiti grazie a concordati fallimentari ben architettati da commercialisti senza scrupoli e senza il minimo rispetto per chi come me ha creduto in loro ed è rimasto troppe volte deluso. Anch'io ho famiglia, una moglie e tre figli e non posso permettermi di rischiare il posto di lavoro o un provvedimento disciplinare. Nonostante le tante delusioni datemi da tali imprenditori, però sono dalla parte di quelli che, stanco di assistere impotente alla rovina di tante persone e famiglie a causa di un sistema bancario cieco e sordo, del quale purtroppo faccio parte, dicevo, sono dalla parte di quelli che vengono trattati come si fa di tutta un'erba con un fascio. Sono stanco di ricevere un vecchio che ha l'età di mio padre che con vergogna e disperazione mi chiede 50 euro a settimana di sconfino dal conto per poter mangiare ed io puntualmente glieli concedo, in barba ai regolamenti e alla carriera, perché è giusto così. Sono anche stanco di non poter aiutare tanta brava gente meritevole, perché nel frattempo, vista la mia voglia eccessiva di aiutare, mi hanno pure tolto i pur miseri poteri di delibera che avevo. Non me ne frega niente, sono un essere umano e voglio fare la mia parte per salvare il mio paese. Nel mio piccolo vorrei anch'io essere un eroe, come quelli che ogni giorno si alzano e fanno quello che si deve fare. Non mi piace più il mio lavoro, non a queste condizioni. Io mi ci metto nei panni dei disperati ogni giorno. Non leggo il nome e il cognome per tutela, l'oggetto della mail era: anche i bancari hanno un cuore. I bancari, non i banchieri, i bancari. Buonasera, sono sdraiato sul letto a non far nulla, come ultimamente mi capita spesso. Facevo il rappresentante da sempre. Ho sempre mangiato chilometri di polvere per incontrare i clienti, per il mio bene e per quello delle aziende. Sono 15 giorni che non commissiono un capo e da tempo va male. Ultimamente non ho pagato quanto dovuto, o pagavo o mettevo il piatto a tavola per mio figlio e il gasolio per girare. Adesso che faccio? Che ci scrivo nel mio curriculum? Che forse so vendere? Non ho comprensione né pietà cristiana per nessuno. Auguro a chi è deciso per me di morire lentamente, come lentamente è morto il mio essere uomo. Buongiorno. Breve cronistoria. Nel 1995 creò orgogliosamente la mia impresa dell'edilizia. Partiamo in due. Lui preparatissimo sulle tecniche di costruzione, io geometra sufficientemente preparato. Fino al 2005 lavoro 18 ore al giorno, dal lunedì alla domenica. Faccio il manovale, vado con il mio camioncino a caricare e trasportare detriti, materiali, aiuto a mettere i sacchi dell'intonaco nell'impastatrice. Insomma, mi spacco la schiena. Vado in cantiere, seguo gli operai, fa freddo, c'è il sole, c'è polvere, non importa, deve emergere. Un disastro. Le banche vogliono garanzie. Bene, eccole, garanzia Artigian Cassa, 50% dell'importo, quindi l'altro 50% del finanziamento rimane in mano alla banca a garanzia. Allora prendo soldi in prestito da amici, da mio padre, da mia madre, che li hanno messi su uno per uno tirando la cinghia. I clienti, grandi aziende della Liguria, pagano sempre su ricatto la metà di quanto ti spetta. Hai gli operai da pagare e cedi al ricatto. Insomma, loro per le banche sono sempre il meglio. Non pagano le aziende che fanno lavorare, non hanno stipendi da pagare e sono potenti. Bene, ora il risultato. Da 300.000 euro che non potevo dare all'esattoria sono diventati 620.000. Vi giuro che non auguro a nessuno tutto questo. Ricordatevi che le poche ore che dorme un imprenditore pensa agli stipendi che deve pagare, alle scadenze. Un inferno. Delle volte non avevo nemmeno i soldi per mangiare. Oggi ne leggo solo due di lettere, poi torneremo anche nei prossimi giorni. Però, professor Ricolfi, mi ricollego in maniera molto semplice a quanto lei ci ha raccontato, scrive oggi sulla stampa, perché è chiaro che il Paese non regge più un aumento della pressione fiscale. Avrebbe bisogno anche, per quelli più meritevoli, di un alleggerimento, di un incentivo, di un aiuto, di un traghettamento. Questo si può fare solo se non si tocca il deficit, o meglio, se si diminuisce il deficit e quindi il debito. Se non li puoi prendere da un aumento dell'IVA e delle tasse, devi spendere di meno. Il suo fondo oggi sulla stampa, la sua analisi, l'utopia della lotta agli sprechi, mi ha fatto un po' cadere le braccia. Perché ritiene che Giarda non ce la farà? Già avendo detto che forse risparmiamo 4 miliardi su 790, di cui 136 di spesa corrente, di spesa per beni e servizi, è una mezza caporetto. Ma perché lei ritiene che sia un'utopia? Ma ritengo che sia un'utopia perché ci sono state delle opposizioni già prima ancora che i provvedimenti del governo venissero annunciati, e perché tutte le volte che si è tentato di fare qualcosa di incisivo sulla spesa pubblica non ci si è riusciti. E la ragione per cui io sono pessimista però è più specifica, non è solo l'esperienza passata, la mancanza di coraggio della politica, eccetera, è il fatto che siamo arrivati a un punto in cui se si vuole incidere effettivamente sugli sprechi bisogna concentrare gli sforzi nei luoghi in cui gli sprechi ci sono E dato che questi luoghi hanno un contenuto territoriale molto preciso, cioè sono alcune regioni del Mezzogiorno, alcune province del Mezzogiorno e molto più marginalmente alcune realtà inefficienti del centro-nord, tipo quella in cui mi trovo io in questo momento, che è la Liguria, anche il mio Piemonte ha dei problemi, però il grosso degli sprechi è concentrato nel sud. E allora questo è un nodo politico che nessun governo ha il coraggio di affrontare, perché creerebbe una spaccatura, dei problemi di consenso, delle rivolte delle forze sociali, dei sindacati, delle organizzazioni locali, per cui si cercherà di spremere nei luoghi in cui la gente è più disposta a farsi spremere, cioè nelle regioni del centro-nord. Il problema però è che, avendo queste regioni già razionalizzato molto, resta molto poco da spremere. Se lei ha ristrutturato un'azienda, non è che può fare ancora molto, si è già adottato le tecnologie migliori, si è già tagliato i rami secchi, eccetera. E questo è lo stesso problema che hanno le amministrazioni abbastanza efficienti del nord. Possono ancora fare qualcosina, ma poco. Le amministrazioni che possono fare di più però sono intoccabili per ragioni politiche, perché sono serbatoi di voti di partiti importanti che appoggiano il governo, tutti e tre, peraltro, soprattutto. Allora, però professor Ricolfi, mi scusi, ho capito, lei dice potremmo risparmiare un 20-25% di spreco medio, vuol dire qualcosa come 100 miliardi l'anno, in teoria. A me basterebbe risparmiare il 10% dei 132 di spesa per acquisto di beni e servizi, saremmo già a 13 miliardi. Se Giard punta a 4 miliardi, vabbè. Ma guardi, posso obiettare una cosa? Su questa faccenda dei beni e servizi, io non sono così convinto della giustezza di questa linea, perché è vero che ci sono degli acquisti senza senso e si può risparmiare, però guardi che in generale, io mi sono accorto facendo proprio i calcoli sulla contabilità pubblica, che la quantità di beni e servizi, di acquisti di beni e servizi, è un indicatore di efficienza, non di inefficienza. Quello che misura l'inefficienza è la quantità di stipendi, cioè non è la quantità di acquisti di beni e servizi. Anzi, normalmente cosa succede? Che un'amministrazione inefficiente preferisce risparmiare sui beni e servizi perché non vuole toccare gli occupati. E l'inefficienza è determinata dal fatto che si mettono 10 lavoratori dove ne basterebbero 6. Poi sì, certo, ci sono anche gli sprechi. Allora facciamo una cosa, professor Ricolfi, perché io sono in fine di programma, la avremo ospite o domani, però visto che è primo maggio noi siamo in diretta, o se no mercoledì, perché avremo anche le idee più chiare da quello che sarà di quello che sarà uscito dal Consiglio dei Ministri. È verissimo quello che dice, è chiaro che se però io licenzio, creo povertà, se riduco le spese per gli acquisti a parità di acquisto da dove si mangia, non creo povertà immediata. Però sono d'accordo con lei e la vorrei riavere anche per parlare del federalismo fiscale che Monti ha abbandonato, ma c'era un principio cardine lì, la spesa standard. Forse si poteva riuscire ad arrivare in un tempo anche ragionevolmente breve a spendere meno al sud per le stesse cose per cui al nord si spende un terzo, un quinto e un decimo senza le rivolte sociali. Grazie Luca Ricolfi, per oggi Focus Economia termina qui. Noi siamo domani in diretta dalle 18 alle 18.30. Intanto un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.